per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Buongiorno, ben ritrovati. Forma dell'acqua, Radio Città Fujiko, una nuova puntata assieme alla vostra coppia di lunghi. E chissà che forma prenderà per questo venerdì l'acqua, un'acqua che sta diventando estremamente piena, densa. L'acqua si sta sempre più riempendo di appuntamenti importanti con il vostro Special Twice. Beh, del resto le braccia le abbiamo forti, sapremo abbracciarvi, grazie anche a Elisa Iacobucci. Ma che presentazione, ma buongiorno, benvenuti, questo è lo Special Twice e posso dirlo ad alta voce, thanks God it's Friday, finalmente è arrivato il weekend, possiamo finalmente anche appoggiare la scopa e lo Swiffer che stavamo usando per goderci un attimino anche quello che stiamo per assaporare, che è veramente una puntata ricca, densa, frizzante e spumeggiante. Quindi... una ricchezza frizzante e spumeggiante, bene, andiamo avanti, andiamo con avanti. Le iconografie, esatto, bella, possiamo grazie, fare grazie. Di più. Possiamo fare di più, ma questo è solo un piccolo assaggio, chissà oggi cosa ci aspetterà. Beh, sicuramente intanto vi facciamo un po' aprire verso nuovi orizzonti e vi facciamo segnare un numero molto importante che è appunto il 333-180-9494. Eh sì, insomma, vi invitiamo a rimanere con noi fino alle 12.30 per giocare insieme. L'ultima mezz'ora siete voi protagonisti, voi ascoltatrici, voi ascoltatori, per giocare assieme a noi. Cioè, i protagonisti lo siete sempre. Ovviamente, ma a maggior ragione nell'ultima mezz'ora dove il nostro Indovina il filmone, insomma, ha avuto tanto successo, quindi intanto ringraziamo i messaggi che sono arrivati, veramente tanti, tanto cari, e noi siamo sempre qui giustamente in apertura per stuzzicare la vostra immagine e la vostra curiosità. Intanto... sì, eh. E intanto, a proposito di filmone, noi possiamo proporre questo salto di gioia. Allora, filmone, weekend potrebbe essere di cinema, beh, con l'avvicinarsi del brutto tempo potrebbe essere come cinema, ma perché no? Anche teatro. Soprattutto teatro, rivalutiamolo e restate con noi per scoprirne di più. Eh sì, e intanto saltate pure di gioia, lasciate, come ha detto giustamente Elisa, lo Swiffer, lo scopone, lo straccio e lo spazzone, e saltate di gioia con Mark Murphy, Jump for Joy. Up to heaven and you see old Saint Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Hey! Fare thee well, land of cotton lyles, out of style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, leave all the hounds, I do believe, have been killed, made you thrill, jump for joy. Have you seen pastures groovy, groovy, groovy, green pastures was just a technicolor movie when you stop up to heaven and you see old Saint Pete. Tell that boy to jump for joy. Step right in, give me some skin and jump for joy. We'll be right back. Torniamo in diretta giusto in tempo per la merenda, sì, perché il format Special Twice cade a metà mattina, guarda caso, Breakfast Club la colazione, lo Special Twice la merenda. Guarda, prendo proprio... Radio Live la cena. Vabbè, ma non è mai un caso, soprattutto quando riesci a conciliare lo spuntino di mezza giornata e poi chiudere in bellezza con un bel pranzetto, visto l'orario che cade proprio fagiolo. E insomma, oggi in realtà vi stupiamo, perché forse abbiamo un argomento realistico di cui parleremo. Veramente incredibile, incredibile. E proprio così, abbiamo un argomento vero e proprio, ma soprattutto in carne ed ossa avremo un ospite. Un ospite d'eccezione, ma anche no, perché in realtà verrà, speriamo, anche altre volte. Sì, un ospite d'eccezione che diventi un po' così resident. Esatto, d'eccezione per lo Special Twice, visto che di solito abbiamo sì e no ospiti che non sono proprio in carne ed ossa. Cioè, ci piacerebbe averli, tipo Borbacara, Michael Jackson, Marvin Gaye. Ne abbiamo avuti tutti qui al studio di Radio Città Fugico. C'è da dire che dopo una certa data non gli ha piovuto nessuno. Diciamo di sì, però almeno noi così un po' nell'etere ci piace immaginarli qui vicino a noi. Cinta. E invece oggi vi facciamo riflettere non solo a livello musicale, ma anche a livello di scelte di vita, mettiamola così. Sì, sì, uno sliding doors. E se ci fosse un'altra possibilità e se si presenta una seconda occasione, cosa potrebbe capitare? Punto di domanda. Ad esempio, perché nel palinsesto alle 12:30 c'è il GR? E non c'è uno speciale sul pranzo, ecco. Capito? Oppure perché non inserire una rubrica del pranzo dopo il GR? Esatto, ma insomma, voglio dire, abbiamo già coperto la colazione, metà mattina con la merenda, la domenica sera con la cena e poi adesso non ci vedo più della fame. E il GR, ma ti sembra? Ma infatti, tutti questi approfondimenti, insomma. Ma ti dico io. No, guardate, anzi, diamo spazio alla musica a proposito. Esatto. Partito prima, è scappato, non resisteva, scusa Elisa, ma quando io leggo Cisco Tiron parte il cursore, vai più nel dettaglio te. Vado nel dettaglio, sicuramente un grandissimo artista, chissà se avesse preso strade diverse cosa sarebbe cambiato nel mondo. Sicuramente ha aiutato tanto a livello di diritti civili e non solo, diritti umani, tantissime iniziative che venivano proprio dalle sue frasi, dalle sue parole, la sua penna scriveva e rappresentava davvero tutto il mondo. Allora intanto ascoltiamo un grandissimo brano che ci apre un po' anche le danze, o no? Sì, questo è decisamente disco per Cisco Tiron, ma è cosa buona e giusta. Si chiama Shut 'Em Down. Cisco Tiron e il fido Brian Jackson, un po' come dire William Piana e Elisa Iacobucci. Uguale, stessa cosa. Stop him down. about power, like it or not. Gotta work for Earth for what it's worth, 'cause it's the only Earth we got. Shut them down. That's the only way to keep them down. Shut them down. That's the only way to keep them down. Shut them down. Shut them down. Shut them down. E rientriamo sulle note di G. Scott Tiro, un grandissimo artista. Noi siamo sempre qui, lo Special Twice, che vi stupisce oggi non solo perché ha grandi ospiti, ma anche perché ha un tema e parlerà del tema che citiamo. Attenzione. Sì, assolutamente, il tema che citiamo. E poi intanto, prima di parlare di tutto ciò che può essere il leitmotiv di questa trasmissione e soprattutto del personaggio principale di questa trasmissione, non solo di questo format, ma anche di una rappresentazione teatrale meravigliosa. Quindi insomma abbiamo, portiamo a teatro Radio Città Fugico in questo caso. E anche ovviamente tutti voi, indipendentemente dalla vostra attività di questo momento, almeno vi facciamo chiudere gli occhi, staccare la spina, pensare al weekend che arriva e magari appunto come meglio impegnare le vostre giornate. Sì, assolutamente. Intanto però ancora un ringraziamento a chi ha partecipato al quizzone del filmone concorsone la volta scorsa dalle 12 alle 12.30. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono stati preparati e numerosi. Si sono accaparrati una bellissima shopper e quindi un buon motivo per restare dalle 12 alle 12.30 e non solo, sempre sui 103.1. E quindi tornando a noi, insomma, vi ripetiamo il numero telefonico dove contattarci, è il 333-180-9494, quindi rimanete con noi, intanto noi semineremo come pollicino piccole informazioni e piccole... Questa è l'Elisa che piace a me, quella dello schiaffeggiare i tronchi da albero, dei pollicini che spalmano delle briciole, non lasciano, spalmano briciole di informazioni. Ti adoro, questo perché ovviamente... Lo sapevo che eri la scelta giusta. Vedi, ma è solamente perché ci sono state insomma piccole break, merende di formaggini che ricordano queste cose spalmabili. Però tornando a noi, quindi riconcentrandoci, torniamo alla musica. Torniamo che ovviamente alla musica. È il cavallo di battaglia dello Special Twice. E allora ti vedo fremere, Willy. Sì, ti vedo fremo perché c'è già l'ospite. Posso lanciare solo una cosa? Vai. Allora, secondo voi c'è un evento della vostra vita che, tornando indietro, non rifareste oppure cambiereste strada? Quindi rimorso o rimpianto? A fra poco, state con noi 103.1! Thank you. Ed eccoci qua di rientro in diretta sui 103.1. È arrivato Elisa, è arrivato l'ospite. Posso fare un piccolo rullo di tamburi, finalmente. È qui con noi Andrea Sant'Anastaso, te lo presento, lo presento alle ascoltatrici, lo presento agli ascoltatori e lo saluto, benvenuto su Radio Città Fugico. Ciao a tutti, buonasera, ciao ragazzi, come va? Bene? Molto bene, molto adesso, bene. Adesso bene. No, in realtà io sono un po' offesa perché non ha accettato il mio break, la mia piccola meretta preparata con tanto amore. Quasi stizzito, no guarda, ho già fatto il mio break. No, in realtà è che mangio in orari improvvi, perché avendo un bimbo piccolo ormai è saltato tutto. Una volta si mangiava in orari normali da esseri umani, oppure più tardi, oppure prima. Adesso invece non esiste più orario, quando mangia lui mangio io, quindi ho già mangiato per quello. Ma infatti questa è un'ottima scusa per mangiare più volte durante la giornata. Esattamente, il trucco beccato è quello. Beccato subito. Altro che più possibilità, qua ce n'è una, mangiare. In buona sostanza. Il tema in realtà non è la musica, lo special toys, ma è il cibo. Ormai l'avete capito. Siamo 4 metri di speaker in due, bisogna in qualche modo riempire il sacco grande, no? Effettivamente una cosa che ho notato appena arrivato è che siete da torcicollo, cioè nel senso che siete troppo alti. Allora facciamo la foto dopo. Ti mettiamo come playmaker nel nostro quintetto, vieni ipotetico. Sai, siete le prime persone con le quali in mezzo a voi sembro mio padre quando è vicino a me e ai miei amici, perché mio padre è più piccolo, molto più piccolo di me, quindi in realtà insomma è la prima volta che mi sento come si sente lui. C'è uno sbalzo temporale, ma di sbalzi temporali ne parleremo fra poco con Andrea Sant'Anastaso. Vi portiamo a teatro. Andrea Sant'Anastaso, fra l'altro, non solamente attore di teatro, ma anche noi siamo qui per imparare. Elisa ci può insegnare qualcosa, perché lui lavora in radio anche. Sì, esatto, ma anche se io e te, Willy, abbiamo fatto le scuole alte, perché più o meno eravamo all'ottavo piano, quindi esatto. No, in realtà poi non è vero, perché molte volte capita, quando lavori e fai la radio tipo in Rai, come capita al sottoscritto, che poi gli altri dicono tu fai la radio, invece in realtà non è vero, la radio vera la fate voi, quella che si fa laggiù è un'altra roba. Sì, dici? Grazie. Ma in realtà grazie. Sai forse cos'è? Perché siete talmente professionali, quindi tutto è assolutamente già elaborato, pianificato, c'è uno che fa solo la regia, uno solo l'audio, e quindi tu pensi a... In realtà il problema è proprio quello, io quando mi ritrovo in quelle condizioni, io di solito chiedo, sì, ma lasciamoci un po' andare, perché sennò la radio non è bella, invece capito, è più bella quando è un po' più così, un po'... Allora hai preso male, perché di solito Elisa è precisissima. Allora va bene. Allora prendimi pure in giro, visto che ormai facciamo rubriche sulle metafore di Elisa, visto che ogni tanto prendo il via e inizio a fare metafore. Sono bellissime, è una filosofa, io infatti ho un'ammirazione sfrenata. Per l'autunno lei l'ha definito uno schiaffeggiare dei tronchi d'albero con delle mani guantate da guantoni di box per far cadere le piante e le foglie. No, era diversa, era molto più poetica, dai, diciamolo. Quando si spiegano le metafore, poi è come spiegare la poesia, scende. Hai ragione. Dai. Bisognerebbe raccoglierle e farne dei podcast, sai, dei piccoli pillolette, uno se le porta nel telefonino, ogni tanto tiri fuori come podcast la pillola. Perfetto. Vedi che sono una fucina di idee, io, ragazzi, preparati. Perfetto. Grazie, allora rimani con noi, perché ne sentirete delle belle. Sì, assolutamente, non solamente per quanto riguarda l'intrattenimento, ma anche il teatro. Allo Special Twice abbiamo assolutamente qualcosa, insomma, che ci può impegnare piacevolmente il weekend. Tante chiacchiere, ottima musica, Superbad, la musica è di Idris Muhammad, l'interpretazione James Brown, The Godfather of Soul. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. Super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes it's deep. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I don't need no one else. Sometimes I feel so nice, good God, I jump back, I wanna kiss myself. I've got soul and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad. Oh! all about. I got soul, I'm super bad. Lui è Idris Muhammad e accompagna questo rientro in diretta allo Special Twice, oggi speciale teatro. Ricordo che il teatro, anche grazie a In Scena, la rubrica che alza il sipario su Radio Città Fujiko del Breakfast Club, sta entrando sempre di più sui 103.1. Questa è cosa buona e giusta, vero Andrea? È cosa buona e giusta, bisogna rispondere così. Eh beh, è una cosa liturgica a questo punto. È la risposta giusta, perché siamo sullo Special Twice, finalmente abbiamo un tema che rispettiamo, perché di solito noi partiamo con la nostra puntata dicendo che il tema di oggi è lo sport e poi in realtà non parliamo di sport per due ore e in realtà poi lasciamo. Sai qual è il problema? Che l'ultima mezz'ora facciamo il quiz e le ascoltatrici e gli ascoltatori devono indovinare il tema. Secondo te ce la fanno? Una volta ce l'hanno fatta. Ce l'hanno anche fatta e quindi abbiamo detto a questo punto bisogna standardizzare questa cosa, visto che ha funzionato. E evidentemente c'è qualcuno che è tanto matto quanto noi da entrare nella nostra mentalità. Allora, a proposito di matti, quanta postia ci vuole per fare teatro? Tantissimo, bisogna essere folli completi, nel senso che non puoi avere un briciolo di normalità, oppure se ce l'hai devi saperla nascondere. Questo capisco. Ma è vero, dicelo tu Andrea, è vero che anche per far ridere bisogna essere molto seri? Certo, bisogna essere serissimi, la risata o la comicità è matematica, quindi bisogna studiarla bene. Bisogna averci un talento naturale, io grazie a, penso di averne poco, ma penso di averne un po' ereditato un pochino. Quel poco ereditato l'ho associato alla matematica, che è fondamentale, allora fa sì che poi le risate in qualche modo arrivino, quindi bisogna essere molto precisi e poi, sai cosa? Ascoltare è il trucco migliore per far ridere. Oh, vedi? Ascoltare. Speriamo che ci ascoltino, perché il tema è importante, assolutamente. E non solamente per questo bellissimo brano che è partito di Julie Driscoll, che ascolteremo fra poco prima di andare in pubblicità. Abbiamo con noi allo Special Twice Andrea Sant'Anastaso e perché no, quindi oltre che a parlare della sua carriera parleremo anche di uno spettacolo che si terrà il 25 e 26 ottobre al San Salvatore in via Volto Santo a Bologna. Come si intitola? Si chiama Una scelta non chiara e poi vi dirò di cosa parla, però in realtà è una scelta non chiara, già il nome insomma vi dà l'idea. Sì, anche perché abbiamo parlato un po' del tema di oggi, della sera, abbiamo già lanciato la nostra piccola briciola, vedi che partono anche le solite metafore del giorno e insomma, rimorso o rimpianto, cosa preferite? Ditecelo anche al 333-180-9494. Tu Andrea, dopo anche questa esperienza teatrale, preferisci rimorso o rimpianto? Il rimorso, assolutamente. Però mi sa che nel mio spettacolo si parla più di rimpianto. Sì, a questo punto abbiamo gettato la briciola. Abbiamo gettato la briciola, restate con noi, 103.1. A tutto teatro, lo Special Twice, grazie a Dio, è venerdì. Buon ascolto, restate con noi dopo la pubblicità insieme a Andrea Sant'Anastaso. E torniamo insieme sui 103.1 di Radio Città Fujiko insieme a Stevie Wonder. Torniamo assieme. Elisa, un riassunto della mezz'ora precedente, visto che abbiamo... siamo andati oltre. Allora, un riassunto mi chiedi troppo. Ho tante capacità, ma ho anche tanti difetti. E di certo riuscire a fare un riassunto di una mezz'ora dello Special Twice è veramente impossibile. Anche solo parlare delle metafore, perderei un'altra mezz'ora facendo altre metafore. Quindi io riuscirei a sintetizzare il tutto dicendo che abbiamo qui un grande ospite. Sì, sì, abbiamo qui vicino a noi Andrea Sant'Anastaso. Ne abbiamo già parlato delle sue qualità da speaker radiofonico, non solo, ma anche da attore. E insomma, dopo aver ripercorso, almeno accingerci a ripercorrere una carriera, piuttosto, Andrea, a che età hai iniziato a recitare? Molto anziano, in realtà, perché facevo l'università io, perché mio padre, da attore, pensava che fosse la peggiore professione del mondo, quindi ha fatto di tutto per non farmela fare. In più io ho anche un dono del cielo, chiamiamolo così, cioè so disegnare bene, quindi per un po' ho fatto il disegnatore di fumetti. Poi la laurea in giurisprudenza e il disegnatore di fumetti, le due cose insomma insieme non collimavano. In più in mezzo ci si è messo anche il teatro, perché ho cominciato a fare scuola di teatro, quindi insomma di fatto ho cominciato, avevo 26-27 anni a fare... Pensa a te, eh? A tutte le sfortune quest'uomo. Sa disegnare, sa recitare, lavora in radio, lavora a teatro. Non so, è pieno di donne magari. Ho una moglie e un figlio meraviglioso che saluto. Pietro, ciao Pietro, cioè, va salutato sempre. Vabbè, Pietro, se no si offende. Anche perché è il compagno di merenda, a quanto ho capito. E anzi, un'altra fortuna, a quanto pare è che tu fai merenda in quantità, ma non si vedono particolari no, devo risultati dire che sul tuo fisico. Non so come... rimani in forma. No, si asciuga tutto, sparisce tutto. Secondo me è perché la vita... è talmente frenetica che non riesco a assimilare quello che mangio. E comunque, dicevo, Pietro, compagno di merende, e in realtà totale, cioè nel senso che quando ha cominciato l'asilo ho dovuto fare l'avviamento io. Sai che di solito si dice che le madri bisogna aiutarle perché se non riescono c'è a staccarsi dai figli. Nel nostro caso è stato io quello dei due che è stato da avviare all'asilo, perché era più dura per me. Beh, vabbè, ma con l'attività che fai deve essere stato facilissimo. Ti sarai annoiato tantissimo, vero? No, Pietro dice che papà è matto e quindi in realtà ci divertiamo parecchio insieme. È matto, talmente matto che addirittura porta in scena come attore principale una scelta non chiara. Esatto. E a questo punto vogliamo più informazioni. Dacci allora, più informazioni. Diciamo chi ha scritto lo spettacolo, perché poi di fatto si dimentica sempre che la base di tutto del cinema, del teatro, sono quelli che lo scrivono. Se sono bravi a scriverlo già è tutto più facile. Quindi Eugenio Bortolini e Giovanni Gotti l'hanno scritto questo testo. Io insieme a Eugenio Bortolini, che è anche attore di questo spettacolo, e Anastasia Kuzmina e Jessica Tonelli lo mettiamo in scena, siamo in quattro, ed è un racconto di, chiamiamolo, una seconda opportunità, nel senso che è la storia di un uomo che ha nella sua vita ormai raggiunto una certa, come si dice, tranquillità, ma pace dei sensi, mettiamola così, ha una moglie, stancamente procedono, non hanno figli, ma insomma la moglie una sera parte, va via, deve andare via per lavoro, star via e una... via parti ta, ta, ta, va via, no, parte per, no in realtà parte va via per lavoro, lei va via per lavoro e il marito rimane una notte sola. Bene, un amico lo convince a organizzare una notte brava di sesso con delle compagne strane, stravaganti, ecco, vedi, russe, quindi... russe, ci tengo a precisarlo. Questo compagno un po' stravagante lo convince a organizzare questa serata, ma lui in realtà riceve una telefonata di una sua ex fiamma. L'aveva conosciuta ed è la donna della sua vita, diciamo così. Lui l'aveva conosciuta quando aveva ancora 20 anni, quindi 20 anni addietro. Lei lo chiama e gli dice: ho voglia di rivederti. E lui decide di rincontrarla, cioè si dà una seconda possibilità. Anche perché insomma lasciare dietro la porta due russe per una vecchia fiamma di 20 anni fa, che magari ti si apre la porta e ritrovi davanti chissà cosa, insomma vuol dire che ti ha lasciato davvero un bel ricordo. Confesso che io ne so di più, insomma, e quindi lui l'ha fatto molto, ma sai il parto di 9 mesi per decidere se richiamarla o no? Sì, c'è un tempo di spettacolo e solo perché lui non si decide se ritelefonarle o no. Poi però decide di chiamarla e di vederla. E come dicevi giustamente tu, quando lei arriva, tutti si aspettano che lui apra la porta e chissà che tipo di donna anziana si presenta. Invece lo possiamo dire perché non è niente di svelato, che quando lui apre la porta gli si presenta davanti la stessa ragazza di allora, cioè una ventenne, che è una, in un corpo di una ventenne è una donna ormai di 40 anni, che però gli propone: ok, sono tua, prendimi. Posso dire che questo per me è il vero colpo di genio. Ne parlavamo prima, vero Elisa? Sì, infatti. In tutte le rappresentazioni, le scritture di Eugenio, che saluto fra l'altro, già ospita in scena al Breakfast Club e lo aspettiamo chiaramente. Questo per me è il vero colpo di genio, nel senso che è una caratteristica di Eugenio Maria Bortolini. Spesso riesce sempre con normalità a mettere il metafisico, perché questo è un aspetto metafisico, perché si sta parlando di una ragazza che ha l'età del personaggio che interpreta Anastasia, ma si sta parlando di 20 anni oltre, e non si presenta una 45enne seppur una bella signora. No, no, no, si presenta quella. Quindi è un colpo di maestro, di genio, particolare, originale quantomeno. Sì, anche perché è come essere messi improvvisamente di fronte al proprio passato, ma reale, tangibile, ce l'hai lì. Non è cambiato, non è un passato passato, ma è un passato presente, perché lei ha dimostrato 20 anni. Poi in realtà da qui in poi non vi racconto più altro, perché così verrete tutti a vedere lo spettacolo e capirete come va a finire. Però devo dire una cosa di Eugenio, condivido quello che hai detto. Ha questa capacità, cioè trova sempre la chicca per farti riflettere, che poi è una cosa che hanno i grandi, cioè quelli che scrivono le cose comiche, ma poi quando esci sei fatto delle grandi risate, c'hai mal di pancia, ma pensi, però sai che... Mi ha lasciato qualcosa, una riflessione. C'è un contenuto. Più. E basta fare complimenti a Eugenio. Intanto qui abbiamo Andrea, e quindi. Basta, che poi sono troppo e si monta la testa. Infatti. O qualche complimentino se ci invita a cena, vabbè, ma quello è un altro discorso. Intanto, allora andiamo in musica. Parlava, Elisa, di cambiare, di Sliding Doors, di cose che cambiano, un po' come il nostro mood, il nostro groove, le nostre sensazioni. Sì, infatti dopo Superstation e poi parleremo anche un po' delle superstizioni che avvolgono un po' l'ambito teatrale. Sì, sì. Intanto parliamo di cambiamenti, no? Cambiamenti di umore, cambiamenti di groove, cambiamenti di mood, the style, Council, My Ever Changing Moods. A fra poco, buon ascolto! E torniamo insieme. Si parlava di superstizioni sui 103.1. Intanto non dimentichiamo che abbiamo qua con noi Andrea Sant'Anastaso, che fra poco ovviamente metteremo al lavoro, perché è una grande fortuna. Ovviamente a grande fortuna corrisponde grande responsabilità, ovvio, no? Ricordi l'uomo ragno che diceva certo, superpotere, a un grande potere corrisponde una grande responsabilità. Ha una grande capacità di recitazione, corrisponde un jingle per lo Special Twice. Esatto. Okay, benissimo. Beh, ormai l'abbiamo incastrato, non bene, può più sfuggire alle nostre grimpie. Benissimo. Detto ciò, noi proseguiamo parlando della superstizione a teatro. Esatto. Si dice una parolaccia, io difficile, anzi le detesto dire in radio, però si dice merda, no? Sì, è proprio rigoroso, cioè non si può dire, non si dovrebbe dire in altro, altro modo. Cioè l'inbocca al lupo è consentito ogni tanto, ma il merda è... Solo ai non addetti ai lavori, esatto, si accetta. Mai il buon spettacolo, mai auguri, quella roba lì, guai, guai. Però merda è vera, è per precisa, insomma. Poi c'è un'origine nobile questa cosa. Vabbè, perché... dai, spiegalo, ormai ci siamo. Siccome nel periodo del teatro elisabettiano si andava a teatro a cavallo, quando c'era tanta merda davanti al teatro, voleva dire che erano tanti i cavalli, le carrozze che erano andate a vedere lo spettacolo, e quindi voleva dire tanta gente in teatro, insomma. E tanta fortuna, esatto. E quindi anche tu avrai le tue piccole superstizioni magari prima di entrare Che domanda, in scena. Sentiamo, sono curioso. Allora no, in realtà devo dirti la verità, non ne ho, nel senso, ho giocato per anni a calcio. Anche, è anche un campione nello sport. Beh, no, sai, vabbè. Comincio a odiarlo. Con ti dico una la mano faceva un fumetto, con l'altra scriveva una legge e col piede calciava la palla. Quando giocavo a calcio, lì ero molto superstizioso. Entravo in campo sempre con lo stesso piede, mi allacciavo la scarpa arrivato a centrocampo, facevo un certo numero di saltelli prima dell'inizio della partita. Lì ero proprio rigoroso. Nel teatro no, nel teatro devo dire non ho nessun tipo di superstizione, tranne il merda che si fa tra teatranti. Non mi dà neanche tanto fastidio, devo dirvi la verità. Il viola, una cosa sì, la faccio, cioè sì, ci sto attento quando mi capita. Si dice che non si deve fischiettare quando si sta in teatro a fare le prove, perché i fischi chiamano fischi, quindi in realtà non si dovrebbe quando stai mettendo a posto le scenografie. Quindi sei un tipo che fischietta. A me capita ogni tanto, magari sei lì che di fare una fischiettata, ecco lì delle volte penso, non bisognerebbe fischiettare, però devo dire la verità, la superstizione poi perde il potere, perché prende il sopravvento la voglia di fischiare, quindi me ne frego. Sì, vabbè, ma poi alla fine quando uno spettacolo è scritto bene, quando è recitato bene, è normale che la conseguenza sia un bel pubblico che è coinvolto e che apprezza. Sei stato un atleta, l'avresti mai detto? Lo siamo stati anch'io, Elisa. Sì, cioè nel senso che vista la vostra prestanza fisica e come. Adesso non so se è basket o pallavolo, ma entrambe. Tutti entrambe. E due, uno per uno. Lei pallavolo, io basket. Eravamo due campioni, vedi? Poi adesso ci siamo ridotti così, hai capito? A mangiare la tigella e a bere il vino. Se avessi mai dovuto giocare a basket o a pallavolo, comunque non avrei mai voluto giocare contro uno di voi due, perché insomma l'altezza. E ne hai ben donde. con due super campioni, poi finiti a Radio Città Fujiko, imbattibili chiaramente, imbattibili anche come a livello ospiti, musicale, a livello musicale, come musica, come Special ospiti, troppe ne abbiamo, e come ovviamente ascoltatori, quindi anzi vi ricordo il 333 180 9494, approfittate visto che a breve, insomma, voi ascoltate bene lo Special Twice, perché anche Andrea lascerà piccole briciole per i vostri indizi in modo da vincere la vostra bella shopper. Dici un'altra tua passione a proposito di questo nostro modo di fare radio, che nell'ultima... Dillo che ti piace andare a rubare in banca quando è il sabato pomeriggio. Esatto. dai e poi ti fai chiudere dentro. No, mi piace molto il cinema, questa è la vera passione, cioè nel senso che ho questa follia cinematografica, quindi mi piace andare a vedere dei film, mi piace cercare di ricordare di cosa parlano, e mi piacciono molto i film che partono incappucciati. Vi piace come prima indicazione? Prendete nota, penne e calamaio, ragazzi. Sta parlando troppo, bisogna farlo fuori. Anzi, ed è strano, ed è strano, perché allo Special Twice le parole fluiscono come... C'è un po' di difficoltà. C'è un po' di difficoltà. Comunque ogni tanto deviamo dal tema principale, che è una scelta non chiara. Perché abbiamo un tema principale, Elisa, a volte distorto. Parliamo di teatro, scelta non chiara. Tu ogni scrittura, tanto riprendimi. Ecco, che, di Eugenio Maria Bortolini, che salutiamo. Salutiamo anche Jessica Tonelli, che... Sì, anche perché Jessica è tua moglie. Sì, fa mia moglie, quindi comunque va salutata, perché come tutte le mogli sai che poi si viene bacchettati. E no, soprattutto perché è bravissima Jessica, e tra l'altro l'abbiamo conosciuta solo per una scelta non chiara, non la conoscevamo prima, né io né Eugenio, e ci siamo innamorati, virgolette, della sua straordinaria capacità di adattarsi a noi, perché il problema di lavorare con me, Eugenio, siamo io e Eugenio, cioè nel senso che, fai conto, se una scena dura 3 minuti, poi in prova noi la facciamo diventare di solito 10-15 minuti. Improvvisate molto, molto, quindi. E la volta dopo però ci dimentichiamo quello che abbiamo improvvisato prima, quindi in realtà poi devi provare la maniera di seguirci. E devo dire che Jessica ogni tanto l'ho vista un po' sbiancare. Sì, ogni tanto perdeva un po' il filo. Vabbè, questo intanto va anche a incitare il fatto di andare a vedere, anche se avete già visto l'anno scorso lo spettacolo, anche quest'anno il 25 e il 26 novembre, perché non è mai uguale, quindi... No, non è mai uguale. Poi io aggiungo un'altra cosa, Elisa, importantissima, e sono serio. Vabbè, lo ero anche prima, si scherzava e si sta in compagnia, perché 10.30 12.30 Radio Città Fujiko, Forma dell'Acqua, Special Twice, grazie Dio venerdì, ci prepariamo al weekend. Però dicevo in sostanza che si scherzava, ma il discorso della location è importantissimo. Sì, l'abbiamo visto in un certo contesto. Io sono curiosissimo di essere a Teatro San Salvatore e rivedere quest'opera. Sì, perché in realtà noi l'abbiamo sempre fatto in spazi ampi come il Duse, quindi quando lo spazio, invece San Salvatore è un teatro piccolino, cambia tutto, cambia completamente. Ma una cosa, un vantaggio per chi lo dovesse aver visto al Duse ad esempio, è che lì respiri di più il nostro respiro, perché siamo a diretto contatto, quindi senti di più gli attori, senti di più quello che sentono e che provano, molto di più, non c'è quel distacco del grande teatro. E forse quella è una chiave bella anche per vedere il teatro, perché il San Salvatore ha poi, come tutti i piccoli teatri, quel vantaggio, no? Che senti le gocce di sudore degli attori. Sì, fantastico. Fantastica. E poi credo, da quello che ho capito, che come linea di spettacolo ci sia anche il coinvolgimento del pubblico. In come realtà, sempre. In realtà loro, il pubblico non viene coinvolto direttamente, ma di fatto si troveranno tutti coinvolti nel racconto, perché tutti quanti scopriranno che hanno qualcosa da ricordare, non so se rimpiangere o no, no. Però qualcosa da ricordare ce l'hanno tutti. Sì, si diventa immediatamente protagonisti e soprattutto c'è un livello di empatia dal punto di vista sia dell'espressione ma anche del fatto di sentirsi vicini a questa città, perché il personaggio di Eugenio, fra l'altro, è molto così, il somarone, il somarone. Al Sumarnaz, no? Sì, in Romagna lo chiamerebbero il Patacca, da noi è il Sumarnaz, però quello è, cioè lui è proprio quello, è l'amico un po' quello che ti vuol portare fuori, che ti vuol convincere, che si vuol divertire, che ride, mangia e soprattutto che pensa alle donne sempre dalla mattina alla sera. Quindi sì, lui è così. Devo dire che io sono quello col quale vi credo vi identificherete di più, uomini e donne, perché di fatto poi... mi capita tutto a me, faccio un po' da parafulmine per tutta questa situazione, cioè me, il mio personaggio in realtà, e quindi devo dire che Marco, che è il personaggio che interpreto io, è un po' tutti noi, tutti quelli che verranno a vedere lo spettacolo, uomini e donne, ripeto, ci si ritroveranno anche le donne. Allora, uomini e donne, apritevi alle nuove esperienze, perché insomma, rimorso e rimpianti, anch'io devo dire che preferisco ovviamente il rimorso, perché a questo punto prova. Questo lo scopriremo più tardi, Elisa, dopo ti intervisto. Tra rimorso e rimpianto. Va bene, allora mi preparo una metafora per subirti. Ok, 103.1 sempre su Radio Città Fujiko, il nostro Special Twice prosegue con Otis Redding. Io e Elisa siamo amanti della musica afroamericana, l'avresti mai detto? Ma no, ma va. I can't. vero, Elisa, che hai fatto teatro? Io sì, io ho fatto teatro. No, l'ha fatto davvero? No, l'ha fatto davvero? Perché ridi? No, adesso hai capito qua. Ma adesso subito no, cioè uno non può fare la finta no, perché, seria. Perché che in realtà è partito da una minaccia fuori onda questa sai, Elisa, sì, ma in realtà lui... pensavo ti prendesse in giro, invece no, in realtà no. No, è che lui vuole mettermi in difficoltà, però ogni volta io cerco con le mie fantastiche metafore che con i miei guantoni picchio gli alberi per tirar giù le foglie, vedi, alla fine mi riesco sempre a svisciare via, così. Quindi non mi hai fatto teatro, adesso abbiamo qui con noi. È per quello che ho detto, ma è vero, cioè io nel mio piccolo facendo teatro si diceva appunto merda prima di fare la rappresentazione teatrale, e mi chiedevo, ma è una cosa che rimane nel piccolo o comunque viene perpetuata anche a grandi livelli? Rigorosamente a grandi livelli da sempre, cioè nel senso sempre, che la superstizione è sovrana, è il teatro va tenuta sempre presente, sempre lì. Io adesso tra poco comincerò, ho aperto una scuola di teatro a Vignola dove sto, e tra un po' comincerò i corsi, e una delle cose che insegno è a essere superstiziosi in teatro, cioè, sì. Dico, bisogna esserlo, è fondamentale. Allora, la sfiga è dietro l'angolo, quindi preparatevi, perché nel mio corso, se non avete un cornetto nella tasca destra, il sale nella tasca sinistra, non potete venire. Guai venire vestiti di viola e soprattutto tanta merda. Siamo vicini al secondo stacco pubblicitario, cara Elisa. Il tempo vola ormai, insieme a Andrea. Eh sì, guarda, mi sa che abbiamo trovato un trio perfetto. Adesso lo invitiamo tutte le volte. Ormai ti abbiamo messo a posto. La palla al piede. Perfetto, siamo a posto adesso. Adesso gli facciamo fare anche il jingle. È fidelizzato per Radio Città Fugico. Esatto. Bene, bene. Questa è cosa buona, giusta. Saranno contenti i nostri presidenti e vicepresidenti Alfredo Pasquali e Andrea Gozza, che salutiamo. Abbiamo un nuovo ospite che diventerà redattore, Andrea Sant'Anastaso. Esatto. E quindi questa è una cosa che mi riempie il cuore di gioia. E diciamo così che il valore aggiunto alla radio poi, è importante. Poi, scusami una cosa, è vero o no, Andrea, che tu hai anche partecipato nella fiction di Don Matteo? Certo, ne ho fatto due puntate. Vedi, quindi secondo me lì potevi fare una bella sciarpa viola, capito, la serie. Così no. Passava Matteo, Don Matteo ti ungeva. Sì, devo dire che però in presenza dei monumenti, come in quel caso lì, cioè di Terence Hill, era difficile scherzare, perché sapete che Don Matteo è una specie di monumento sacro, quindi sì, non bisogna, sì. Non si può, bisogna prendersi sul serio. Non essere serio con me. Grande, però hai visto come te l'ho detto? È una mia scoperta, lo sai. Elisa Iacobucci è un fenomeno. Volevo dirvi una cosa a proposito di superstizione. Sapete che nell'ultima cena di Leonardo da Vinci, sì. Giuda fa ieri l'altro Giuda fa cadere il sale? No, perché è una cosa che quando si parla di superstizione lo dico sempre. Ah, nell'ultima cena di Leonardo, se voi lo andate a vedere anche in internet, Giuda fa cadere il sale. Voi pensate quello che è successo dopo quella cena lì, così vedete se la superstizione conta o no. Hai capito? Ma grazie di questa chicca storica, caro Andrea. Ci voleva giusto questa prima, esatto, di andare in pubblicità vicino ora di pranzo, guarda. Voi restate ovviamente con noi, ricordatevi intanto tutte le piccole perle raccontate da me, da Willy e da Andrea per raccimolarle. Dopo l'ultima mezz'ora abbiamo giustamente il nostro quizzettone per indovinare il film, e intanto è molto difficile, visto che ogni puntata riuscire a carpire le informazioni non è facile. È come trovare una combinazione per aprire una cassaforte, indovinare il film. Ancora, andiamo pure avanti. Altra pillola, attenzione. È un'altra. Vabbè, Baby I Need Your Lovin', loro sono i Four Tops. Dopo andiamo in pubblicità e torniamo con Andrea Sant'Anastaso, Elisa Iacobucci e William Piana e lo Special Twice. Has all been hers. Darling, I can't go on without this emptiness that I live without. This loneliness inside, darling, makes me feel half alive. Baby, I need your love. Got to have all your love. Baby, I need your love. saw him walking down the street today. That's when he told me, you should get to know me. I took a walk outside of the shelter. Love was with me when the lightning struck and hit me. It's better I loved and lost and never felt it. Analyze what's been happening. Una copiata d'eccezione, cara Elisa Iacobucci, abbiamo Yumir Deodato, grande compositore, direttore d'orchestra brasiliano, e la voce di Al Jarreau. Eh beh, insomma, la qualità non solo negli ospiti, ma anche nella nostra colonna sonora, la nostra colonna sonora dello Special Twice, che oggi, thanks God it's Friday, sì, finalmente vigilia di weekend, siamo insieme per dare anche non solo chicche, per regalarvi poi la fantastica shopper di Radio Città Fujiko, ma anche per regalarvi piccole chicche per colmare e impegnare il vostro weekend. Quindi 25-26 novembre, tutti. Ottobre, pardon. Ma lo replichiamo. Volendo lo rifacciamo. Io ero novembre, già. Sì. Facciamo così: se qualcuno adesso se l'è segnato e non ha voglia di cancellarlo, lo rifacciamo il 25-26 novembre. Ok, quindi fate sotto un asterisco, ma c'è anche ad ottobre. Così. 333-180-9494, una scelta non chiara. Rimorso o rimpianto? Cosa preferite? Beh, la domanda rimane sempre aperta. Di solito uno tenta, no? Dice almeno ci ho provato, oppure no, ho paura, nel dubbio non vado a rovinare la situazione, però insomma il dubbio poi rimane per sempre. Io sono un noto vigliacco. Sei un po' un vigliacco. Io sono un vile, un coda, come tutti, diciamo così, gli uomini alti, quindi non ti sto prendendo gli uomini quindi, alti. Quindi allora devi sapere, Andrea, che il motto dello Special Twice è un passo indietro e due in avanti. In questo sì. Caso William dice un passo indietro e uno in avanti, così rimane fermo praticamente. Uno e uno. Stiamo palla al centro. Se il passo indietro è mio e l'avanti è suo, ecco che è uno indietro e due in avanti. Diciamola così, e magari facciamo una cosa che riesce ad accontentare tutti, anche per quanto riguarda le buone intenzioni. Teatro San Salvatore, sì. Una location, io la prima volta che l'ho visto, per me è stata veramente una di un'enfasi, di un'empatia, di una situazione di comunicazione, di condivisione unica. Queste cose belle si dicono solo con grande sincerità e grande spontaneità. Emozioni particolari in un contesto, in un chiostro anche all'esterno molto particolare, in via Volto Santo, nel cuore della nostra città, e questo soffitto particolare, questa bomboniera, mi ricordo una bomboniera. È vero, è un gioiello anche il palco che c'è, poi nel caso personale è un ricordo, mi lega a quel teatro un ricordo particolare, perché è il teatro nel quale per la prima volta ho fatto un monologo da solo, cioè il monologo sì, è da solo, un monologo. Un monologo con un muro che mi guardava e mi rispondeva. Un monologo per il pubblico, ecco, mettiamola così. La prima volta che ho recitato un monologo l'ho recitato al San Salvatore, grazie ad Eugenio che me l'ha concesso di farlo, un testo di Giorgio Comaschi che si chiamava Bologna, provincia di Colcù. E io mi sono ritrovato al San Salvatore, grazie Eugenio, con la sala gremita, credo più perché era scritto da Comaschi che perché lo facevo io, però in realtà il pubblico c'era, ha acclamato, si è divertito, e quindi essendo una prima volta per me diventa un teatro indimenticabile automaticamente, come la prima volta quando si fa la prima. Beh, rispecchia anche un po' il clou, il nocciolo dello spettacolo, no? Un po' sì, questo ritorno. Grande. Qualcosa che è passato, in quel caso però non c'è niente da rimpiangere, non c'è neanche niente di cui avere rimorso, ma qualcosa di cui essere un po' di nostalgia, ecco, diciamo così, mi manca quel passaggio, anche se il fatto che ci torniamo adesso 25-26 dimostra che è tutto ancora vivo e si può ancora fare, insomma. Ma ascolta, per quanto riguarda i biglietti, visto che abbiamo dato la realistica impressione, non tanto l'impressione, del teatro che insomma è un po' più piccolo sicuramente rispetto al Duse, quindi bisogna un po' affrettarsi. Il consiglio è di andare sul sito del Teatro San Salvatore, prendersi il numero di telefono e chiamare il teatro per prenotare, perché il teatro è molto piccolino e i biglietti, grazie al cielo, vanno a ruba, perché evidentemente qualcuno sa che quando l'abbiamo fatto al Duse è stato un trionfo di risate. Ma devo dirvi la verità, adesso lo dico come se non lo facessi io, ma soprattutto le parti che vedono me e Eugenio insieme sono veramente esilaranti. Cioè, io poche volte, il direttore del Duse a fine spettacolo ci ha detto: raramente ho sentito la gente ridere così tanto dentro al Duse, che ha una storia molto antica, quindi è una buona cosa, vuol dire che... Beh, sì. Insomma, allora, quindi sicuramente tanta spontaneità, improvvisazione, e questo grazie anche al rapporto che ti lega non solo con il teatro ma con Eugenio, che vi dà anche la possibilità proprio di elevare la risata su tutto il teatro. Sì, poi non si può parlare di altro, perché sennò Eugenio mi sgrida, quindi devo parlare solo del fatto che farò questo spettacolo con Eugenio, non posso dire di tutte le altre cose che vorrei raccontare. No, assolutamente, ma quindi Eugenio la mattina che lo si sveglia, per esempio. Secondo me Eugenio è già lì che controlla. Eugenio è un mattiniero, delle volte gli ho dato appuntamento, è sempre un problema l'appuntamento con le mie rubriche. Oddio, mi riservo sempre di chiamare artisti che danno grande affidabilità. Prima volta con Eugenio dico: guarda Eugenio, io capisco, però io adoro la mattina, io sono sveglio la mattina, mi piace la mattina, le mie rubriche vanno dalle 8 alle 8 e mezza, quindi... Ma io mi ricordo quando ho incontrato Eugenio giù al bar, perché io ero appena arrivata per lo Special aspettando. Twice, mi stavo aspettando. E c'era lui con il caffè che girava, sì, la tazzina. Professionale. Zucchero. Lui è molto serio, molto, ma anche serio. Con le prove, devo dire che è molto più serio di me, cioè nel senso che io sono molto più debosciato, lui è preciso, le prove ci sono tante, come si fa in teatro. Un'altra caratteristica del teatro: si fanno tantissime prove per gli spettacoli, anche soprattutto quando sono comici. E forse comici. A volte sono più buone, sono più divertenti le prove del... Sì, è il motivo per cui si fa teatro, è fare le prove, certo. È bellissimo. Hai capito? Beh, intanto non hai lo stress dell'attesa del pubblico che reagisce. Poi nel mio caso, e qui parlo anche di qualcun altro, c'è Anastasia Kuzmina, che non so se vi è capitato, ascoltatori, di vederla, ma se vi dovesse capitare di vedere qualche fotografia di Anastasia, ecco, vedete anche uno dei motivi per cui è piacevole andare a fare le parole. Ha creato lo sconforto in radio, è venuta in radio. Oh, ok, è venuta qua. È venuta in radio. Piacere. Saluto. Cioè, la comunicazione radio era partita. Saluto Andrea Perolino e Francesco Di Taranto, i nostri redattori della giornalistica, che tuttora si chiedono come mai Anastasia Kuzmina sia venuta nella nostra redazione, che, come tu hai ben visto, è una redazione insomma non esattamente fashion. Ah, ma fa bene ad Anna che veda qualunque tipo di contesto, lei deve farsi le ossa, quindi è giusto che lei si ritrovi. Comunque, attrice, nonostante sia meravigliosa, e dico nonostante perché c'è un po' di polemica in questo, perché di solito quando sono tanto belle poi non sono tanto brave, lei invece è di una bravura devastante, devo dirvi la verità, giovane e brava, poi impara. Lei nasce come ballerina, giusto? È una ballerina mostruosa, lì lo sa fare veramente, invece l'attrice lo sta imparando a fare, però lo impara con una capacità notevole, perché apprende velocissimamente, è un'attrice, cioè nel senso che lei è di quelle che in potenza diventerà una grandissima attrice, secondo me. Sì, lei soprattutto ha una grande volontà, una grande umiltà, ed è una persona estremamente seria, affidabile e, per così dire, anche legata al fatto del miglioramento, sempre alle prove e agli obiettivi che si dà, nonostante la giovane età. Quando è venuta anche in radio, ma ha fatto un effetto veramente di grande entusiasmo e grande approccio, proprio con la volontà di migliorare, perché è una di quelle persone, attori o attrici, che ascoltano, e questo secondo me fa di lei, come dicevamo prima, vedi che le cose tornano, lei è una grande ascoltatrice, e ascoltare fa sì che poi impari a fare questo mestiere. Facciamo ascoltare anche, allora, chi sta a casa, esatto, della musica, magari così ogni tanto un po' così magari della musica. Presentalo te, questo che è il tuo idolo. Il mio idolo, Idris Muhammad. Oh, beh, allora guarda, lo lascio parlare lui, perché forse è meglio in questo caso. Ascoltiamoci un grandissimo artista. Good for your body, good for your soul. Hey, make your body. sta parlando di teatro insieme a Elisa Iacobucci, ma soprattutto col nostro ospite Andrea Sant'Anastaso. Teatro, quindi, torta Barozzi o zuppa inglese? Torta Barozzi e come? Nel senso che sto a Vignola, vivo a Vignola, e a Vignola il dolce più buono che fanno si chiama torta Barozzi, e devo dire vince rispetto... Io non sono un amante dei dolci, però mi piace la cioccolata fondente tantissimo, e quindi la Barozzi è fatta di cioccolata fondente, la zuppa inglese c'ha troppo liquore dentro. Adesso vi lancio una notizia shock. Io siamo non ho tutti mai orecchie. Assaggiato questo dolce. Fuori di qua. La prossima volta, quando tornerò, tanto tornerò, visto che quello che ci siamo detti più volte, ti porterò un po' di torta Barozzi, perché è giusto che tu la assaggi. Perfetto. No, hai sbagliato. Guarda. Vi porterò. Vabbè, la dose di William era chiara. Cioè, insomma, io qui faccio tanto, voglio dire, Special Twice, qua, là, poi neanche un briciolino di torta Barozzi. Dolce eccezionale. Dolce commovente, con una leggenda meravigliosa. Sono questi garzoni del pasticcere che praticamente, chiusi alla sera a lavorare e costretti agli straordinari, si inventano una ricetta molto particolare. Uno dei due si chiama Barozzi e nasce la famosa torta Barozzi, questa torta alla cioccolata che va accompagnata con mascarpone, no? Va rigorosamente accompagnata con mascarpone ed è fatta, oltre alla cioccolata, ha un sapore che deriva dal fatto che si usa molto caffè. In realtà i fondi del caffè, perché loro per stare svegli la notte mettevano i fondi del caffè nella torta. Ed è, poi il resto della ricetta non si sa, è segretissimo, la fa una pasticceria di Vignola che si chiama Gollini, alla quale il nome deve essere inscindibilmente associato, e loro fanno questo dolce veramente straordinario, degno di una Sacher. Se fosse Vienna e non Vignola, cominciano con la V uguale, forse sarebbe famoso come la Sacher. Per me è meglio addirittura. Allora, pronti, non si è abbassata la base per caso, non sono impazzito. È il momento dello spot, è il momento del jingle, ok? Attenzione. Prenditi i tuoi tempi, fai un bel respirone, questa trasmissione si chiama... Allora, scusa un secondo, okay, io prego. Vorrei un attimo caricare Andrea della responsabilità e che adesso è in questo basta, anch'io ascolto Special Twice, oppure volete che dica di più? Cioè, no, nel allora senso io che... farei partire innanzitutto un violino di sottofondo. No, Special Twice di Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko è fondamentale. Beh, certo. Special Twice di Radio Città Fujiko. Faccio partire, aspetta che alzo un pochettino, Faccio partire la nostra base, aspetta. Proprio il classico, ciao. Sì. Ciao, sì, anche io mangio la torta di Barozzi. Pensa che a me non lo chiederà mai nessuno, pensa, è il mio sogno. Hi, I'm William Piano. Anzi, and I'm listening. No, hai no, capito? Presentati come ciao, sono Andrea, mangio la torta di Vignola. No, dai Elisa, dai. No, siamo seri. Aspetta che alziamo un pochettino. Pronto? Via. Ciao. Sono Andrea Sant'Anastaso. Meno male che dovevamo essere seri, Lo rifacciamo. Spiego il motivo della risata. Perché voi che ci ascoltate non potete vederli, ma dovete vedere la serietà che è calata improvvisamente nei volti di questi due folli con i quali sto stamattina. Improvvisamente siete diventati era una chiesa, e quindi mi è calata di colpo. Hai visto, scusate, il Viola, scusate. E ti sei bloccato. L'istrione che è dentro di me ha vinto, quindi. Bene, allora, cominciando a capo, gli perdoniamo allora anche questo. Coraggio, dai, su, cosa non si fa per... Ho sbagliato il mio nome, William, non è poco. E io so benissimo, fra l'altro, quanto tu ci tieni che il tuo nome venga pronunciato correttamente. Questo è l'imbarazzo già di base. Bene, pensa cosa provo io tutti i giorni, hai capito? Ecco, bene, andiamo avanti, ok. Ciao. Sono Andrea Sant'Anastaso e anch'io ascolto Special Twice su Radio Città Fujiko. E voi no? È andata benissimo, perfetto, grazie. Questo, cara Elisa, lo editiamo. Sì, ovviamente. Poi ogni tanto. E voi no, mi è piaciuto. E voi e no. Voi no. Ah, scusa, se mi è scappato, ma ci stava personalizzato. Esatto. Insomma, come vi permettete di perdervi un tale contenuto? No, a parte gli scherzi, invece, grande contenuto. Quest'oggi, la volta scorsa, fra l'altro, abbiamo parlato del Bologna Jazz Festival. Esatto, non solo della di Bologna, presenza, anche della Torrione. Grande città di Ferrara, la sua gemella, sempre sotto braccio. Sì. E quindi oggi siamo siamo passati dalla grande musica ai teatri, che perché sapete bene, come abbiamo già parlato, che con il Bologna Jazz Festival e Ferrara si dà anche importanza ai luoghi culturali che sono all'interno della città, anche patrimonio dell'UNESCO, e quindi rivalutazione non solo a livello artistico, architettonico, ma anche proprio culturale, musicale. Quindi oggi ancora più importanza a un grande attore come Andrea, che è qui oggi, ci fa onore nella sua presenza. Patrimonio dell'UNESCO, indubbiamente. Patrimonio di Vignola in quanto mangiatore di torta. Insieme alla Barozzi, io e una Barozzi vicini all'UNESCO. Forever. È così, è l'uomo immagine dell'UNESCO per quanto riguarda Vignola, fra l'altro cittadina comune di confine tra Bologna e Modena, bellissimo. Io, anche Elisa, penso, abbiamo questa utopia, a me farebbe molto piacere, ogni tanto siamo anche seri, quello di abbattere i campanili, ma non nel senso di prendere, cioè, che insomma, noi abbiamo presentato Bologna e Ferrara, lei ha detto una cosa bellissima, le vogliamo vedere vicine, allo stesso tempo vogliamo vedere vicina anche Modena, la sua provincia e Vignola, perché siamo sempre di più vicini all'idea di città metropolitana, per cui insomma, voglio dire, abbiamo... Io sono la prova tangibile del fatto che un bolognese può andare a vivere a Vignola, che è modenese, città di, sotto la provincia di Modena, e starci benissimo, accolto benissimo, sopportare benissimo le diversità che non esistono, scoprire quante cose ci sono che ci accomunano. Tra l'altro ho scoperto, standoci, che 28 sono i chilometri che la separano da Modena, ma 32 sono quelli che la separano da Bologna, quindi forse è un po' ridicolo il campanile in quel caso. Sono pienamente d'accordo, sì. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, Elisa, dopo Patrizia Rush. Sì, vi lasciamo un po' di pausa, così riorganizzate le vostre, i vostri pensieri. Noi no, invece, li abbiamo ordinatissimi. E intanto, insomma, sono sicura che avete piano piano segnato tutti gli indizi che vi abbiamo lasciato. Allora, abbiamo detto un pochino, facciamo un riassunto. L'ultima mezz'ora è legata a questa cosa. Esatto. Io mi permettevo una cosa, poi correggimi, dimmi che non va bene, non c'è problema. Posso, e me ne occupo io, regalare a nome di Radio Città Fujiko e William Piana un'entrata per vedere una scelta non chiara a chi indovina il nostro quiz? Ma certo, cioè assolutamente. Bene, me ne occupo, me ne prendo la responsabilità. La responsabilità del dolce, allora. Certo, se... non avevo dubbi. Bene, comunque, allora state con noi perché fra poco ritorniamo. I protagonisti siete voi, come al solito, sullo Special Twice, insieme al nostro ospite Andrea Sant'Anastaso, e avremo il quiz legato al cinema. Andrea è un grande intenditore, insomma un grande appassionato, per meglio dire, e quindi avremo sicuramente un contributo importante. Abbiamo detto, è una cosa dall'interno, sono incappucciati, c'è la combinazione di una cassaforte. Ti posso dire che c'è uno fuori che è nero dalla rabbia, ecco, mi piace questo. Molto bella, mi piace. State allora, con noi. State con noi. We'll be right back. un'ultima mezz'ora assieme con lo Special Twice. Bentornati in diretta, ascoltatrici e ascoltatori, accompagnati dalla voce di Nicolette Larson. Te la ricordi, Andrea, negli anni 70, inizio anni 80? Me la ricordo bene, anche perché ero in età in cui ci si ricorda delle cantanti femmine, nel senso che... Diciamo che bastano le vibrazioni dell'autobus, tu vuoi dire. Poi c'erano i video, non cominciavano i video, erano gli anni in cui cominciavano i videoclip, la fine degli anni 70, inizio anni 80, sì. Quindi cominciando i videoclip tu cominciavi a vedere persone che avevi sempre solo sentito, quindi cominciavi a riconoscerle. Certo, indubbiamente. E sognare. E vi era anche l'aspetto, diciamo così, estetico, oltre che a quello della bellissima voce di Nicolette Larson. Bellissima presenza anche di Anastasia Kuzmina, ovviamente, che ricordiamo nel ruolo di Chiara. Anche se non è molto chiara, però come sarà, scelta. Però sarà molto chiara dal punto di vista anche lei estetico, ovviamente, come Jessica Tonelli, che saluto, attrice di straordinario talento e persona soprattutto di una disponibilità incredibile. Lei specifica sempre, quando l'ho presentata a Laura, mia moglie, dice: ciao, sono Jessica, vengo da Fano, provincia di Pesaro e Urbino. Dice tutte le volte, bellissimo. Tra l'altro, sapete che me l'avrà detto, Jessica te l'avrà detto, lei fa spettacolo per a domicilio? Cioè, nel senso, tu puoi chiamarla. Detta così non è bellissima comunque. In realtà è una cosa fantastica, cioè nel senso che lei ha una... lei è una persona, un'altra ragazza, vanno a raccontare storie, letture, fiabe a domicilio, cioè nel senso che tu magari hai un figlio o anche un marito che vuol vedere sentire una cosa colta, raccontata, recitata bene. Chiami questa piccola compagnia di teatro e loro fanno in casa tua, allestiscono uno spettacolo di teatro molto serio, non facciamo nessun festino, ma sono spettacoli seri e sono straordinarie entrambi. Jessica fa questa cosa, quindi poi magari ve lo farete raccontare anche direttamente da lei, però è straordinaria capacità, perché andare in casa di qualcuno, davanti a qualcuno, e fare spettacolo e rendere il tutto credibile è la cosa più difficile dell'universo. Beh sì, poi in un ambiente così familiare, per chi sta guardando, deve essere difficile creare l'atmosfera giusta. No, però, ma infatti Jessica idea. Jessica è una grande, è un grande inventore di queste realtà, perché ha una mente veramente fertile per tutto ciò che può essere innovazione, e soprattutto molto curiosa e voglia di proporre sempre cose nuove, oltre che, come ho già detto in precedenza, una persona estremamente disponibile, a dispetto di un ruolo invece che la vede in un recinto un pochettino banale. Ma bravo, onore al merito, non è facile, È difficilissimo fare quelle parti lì, quei personaggi lì. Lei la interpreta benissimo, perché è la moglie quella un po', non neanche tanto rigida, un po' così, quella che lavora, ecco, diciamo la moglie che lavora, che pensa a lavorare e nient'altro. Però la sua grande qualità di attrice è, uno, di essersi donata per questo spettacolo ad un ruolo così apparentemente semplice, invece molto più complicato. L'altro, quella di sopportare Eugenio e il sottoscritto, come ho detto prima, la cosa difficilissima. Beh, la capacità di riuscire a seguire due persone che stanno improvvisando in continuazione, seguire il filo logico, inserirsi nel punto giusto, onore al merito. Ogni tanto una teleprove si girava e faceva: scusate ragazzi, mi sono perso, dove siete? Adesso cosa devo dire? Adesso dovete dirlo voi, ascoltatrici e ascoltatori, per andare a teatro via Voltosanto, Teatro San Salvatore, con la scrittura e l'interpretazione di Eugenio Maria Bortolini. Qua siamo onorati di avere ospite Andrea Sant'Anastaso. Abbiamo già citato le presenze femminili di Anastasia Kuzmina e Jessica Tonelli. Adesso tocca a voi essere protagonisti. Allora, per un'entrata a questo spettacolo in via Voltosanto, ricominciamo da capo. Allora, dovete innanzitutto indovinare di quale film stiamo parlando. Okay. Durante queste due ore insieme abbiamo lasciato piano piano le nostre piccole briciole, quindi rifacciamo un po' il capitolo della situazione. Abbiamo detto, allora, mentre un uomo molto arrabbiato, nero dalla rabbia, sta aspettando fuori da un edificio in cui ci sono persone incappucciate, c'è anche la combinazione di una cassaforte. Poi possiamo dare qualche altra informazione. Sì, che è un gioiello il film, quasi un diamante. insomma, piano piano. Posso aggiungere anche che è molto atipica questa scrittura per il regista che l'ha preparato. È vero, molto atipica. Questa è una cosa tecnica, ma è vero, molto atipica, nel senso che è particolare. Lui cose come queste non le aveva mai fatte, e credo non le ha fatte mai neanche dopo. E nonostante tutto è stato un successo incredibile. Sì. Do un aiutino in più, è uscito nel 2006, così almeno andiamo, no, a circoscrivere l'anno. Te lo farei facilitato andare a vedere i film usciti nel 2006, forse lo si indovina. Possiamo, un'altra cosa, se volete ne aggiungo uno ultima, diciamo che fare rubare non significa essere brutti fisicamente, ecco, ecco. Questo può essere... insomma, sì, poi i colletti, sì, bianchi, sì, della situazione, sì, ecco, sì, direi, ecco, che ci siamo, insomma, tra un po' ci manca solo che diciamo il cast e poi dopo abbiamo... Esatto, basta, troppa roba. Troppa. Ascolta, è vero o mi sono scordata un po' la nostra playlist? Dopo Andrea Poliedrico abbiamo un grande artista, Poliedrico. Mamma così Poliedrico mia, che usava sax. Naso, mani, piedi, tutto quello che poteva usare. Ha inventato lui un sax, il manzello. Il manzello. E pensa che era anche non vedente, Russian Roland Kirk. We'll be right back. ci avviciniamo alla conclusione, ci avviciniamo al weekend, e questo è molto più importante. Un buonissimo weekend da passare a teatro per il prossimo weekend, ovviamente. Vi invitiamo, se indovinate, anzi vi ospitiamo, che è ancora meglio, invitati siete tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, ma vi ospitiamo se indovinate il film che stiamo descrivendo. Insomma, fate la cosa giusta. Bellissimo. E così l'hai tirata la botta finale perfetta. Sì, fate questa cosa giusta, sì. Do the right thing. Mi piace moltissimo questo ultimo input che hai lanciato. Grande, grandioso. E adesso, come stavi dicendo, non possono. Vabbè. Perché pensavo ci fossimo interrotti, in realtà davo per scontato che voi fossi... Ho fatto uno stacchettino. Ma mi piace l'idea che... Stavo dicendo prima che quando si capita di fare la radio dall'altra parte, stavo proprio parlando di questo, del fatto che non si sbaglia, o quando... Invece noi ci sbagliamo ed è... Mai. Ma Chi? Ossa via, è lontana da noi. No, come? Senti questo, una cosa che non si può fare quando sei in radio è questo, guarda. Se tu picchi contro il microfono, ma prendi delle cazziate. E in realtà invece capita di picchiare contro il microfono, no? Beh, oddio, nello special twice non è mai capitato. Sì, addio, però. L'ultima volta mi ha dato una pacca Elisa, io con la spalla che mi sono alzato, che volevo fare la stessa cosa che ho fatto adesso, cioè il giocare con la voce seguendo le quartine della musica, sì. Quindi fare una sorta di mixaggio tra brano e voce. Solo che adesso hai il microfono in mano, di solito invece è qui, è di solito in appoggio. È venuto da Dio io, grande Elisa, pam! Comunque io invece posso approfittare del fatto, vi faccio un complimento in diretta a voi due, perché in realtà siete meravigliosamente presenti, che è una cosa rara, cioè nel senso siete presenti, state facendo una cosa, andate sempre, seguite la linea, vi distraete apparentemente, ma la linea ce l'avete dall'inizio alla fine. È una cosa rara, in radio capita raramente, quando qualcuno la sa fare te ne accorgi da quello, no? Che comunque la sua linea la segue sempre, non ne esce mai, ha un filo logico, e tu poi quando riascolti il programma senti una cosa, un discorso sensato, che è una partenza e che è una chiusa. Voi siete capaci di farlo? Non no, vabbè, ma Andrea, tu hai ormai hai tolto un mito, cioè lo special twice va a tiro del fatto che propone argomenti di cui non parla, e adesso ci hai svelato praticamente il nostro segreto. No, ma aspetta Elisa, ma sicuro non hai altri complimenti da fare? Vuoi fare un altro spot? No, dai, facciamo un altro jingle. In realtà era così sincero che vedi che alla fine poi è totalmente sincero. Poi adesso, quando invece farete la scelta chiara di venire a teatro a vedere lo spettacolo, allora poi lì parleremo di altro, anche delle vostre capacità attoriali, perché qui abbiamo una professionista dal punto di vista del palcoscenico. E quindi Elisa, adesso tocca, guarda, a te. Se vuoi ti posso distrarre facendo il finto gobbo, dandoti messaggi sbagliati sotto al palco. Potrebbe essere una scelta chiara anche questa. Allora, torniamo a segno, quindi. Allora, la linea abbiamo detto che la riusciamo a seguire, quindi adesso bisogna seguirla per forza. Una scelta non chiara è il protagonista di queste nostre due ore assieme. Il protagonista dal punto di vista così dell'immagine, dell'iconografia e della scelta fra rimorso o rimpianto. La scelta che c'è appunto tra queste due realtà e sensazioni, al contempo però messe sul palcoscenico in maniera estremamente azzeccata, particolare, divertente, ma al contempo anche con qualcosa che aggiunge alla riflessione e al guardarsi dentro. A proposito di guardarsi, ci sarà lo specchio? Sì, ed è una delle chiavi vincenti dello spettacolo. E anche qui, mannaggia, mi dà fastidio, devo dare i meriti a Eugenio Bortolini. Ma è vero, dà fastidio, eh? È lui, l'ha scelto lui. Cioè è lui che ha deciso di mettere questo specchio che dà sul pubblico. Quindi tutte le volte che noi attori ci specchiamo, in realtà noi ci mostriamo al pubblico. È come se lo specchio ci spogliasse, insomma, di quello che siamo, e lo facessimo vedere a chi ci guarda. E infatti dovete far finta di essere allo specchio. E questa è un'altra realtà, Teatro San Salvatore, ma non solo, anche al Duse quando c'è stato l'altro spettacolo, insomma, che ha, diciamo così, attratto in maniera particolare per il vostro talento, la spontaneità e la capacità, perché no, di coinvolgere, seppur indirettamente, presente e il pubblico dall'altra parte dello specchio. Per saperne di più, ovviamente, Teatro San Salvatore, via Volto Santo, sabato 25 ottobre, una scelta non chiara. E anche 26, giusto? Sì, anche domenica 26 al pomeriggio, come si fa sempre, perché il teatro la domenica si fa al pomeriggio. Cioè, poi ovviamente il dopo, il post spettacolo, quindi dopo lo spettacolo, giustamente. Anche qui una ragione antica, cioè dovuta al fatto che il lunedì era il giorno di riposo del teatro e quindi ci si pigliava anche la domenica sera in modo da avere due serate di riposo. Ascolta, un po' come i barbieri. Esatto, i barbieri e gli attori infatti sono quelli che riposano a lunedì. Esatto, ma a proposito, visto che è un po' che non sparo le mie metafore dello special se twice, vuoi abbasso la musica. Non voglio creare una situazione un po' troppo seria, però come... mi taccio, se fai una metafora mi taccio. No, era per ricollegarmi al fantastico specchio come metafora del spogliarsi al pubblico, visto che è lo spettacolo che fa anche tanto ridere, la risata è un po' mettere a nudo anche lo spettatore che poi riesce a coinvolgere. Mi piace molto ricollegare, quindi mi riapproprio della tua metafora dello specchio, sì, come messa, sì, a nudo poi dello spettatore. Sì, è fondamentale l'idea che credo anche qui purtroppo sempre di Eugenio, però purtroppo sì, perché purtroppo mi tocca dargli dire che è bravo, ma... No, dicevo, l'idea di Eugenio è proprio quella, e di Giovanni Gotti anche, coautore del testo, è quella di appunto nel pubblico generare una risata che però poi porti dentro di sé un sacco di riflessioni su come siamo fatti. E questo è il contenuto, infatti, pregevole, disincantato, ma al contempo di grande fattura e di grande talento. Noi ci fermiamo per un po' di funk, ma voi l'avete fatta la cosa giusta intanto, mi raccomando, la cosa giusta è qualcosa che il nostro regista aveva fatto in passato, è arrivato poi a scrivere qualcosa di personaggi incappucciati in una banca che improvvisamente saltano fuori e uno arrabbiato nero era lì che voleva fare delle indagini, non ci riusciva. Insomma, a questo punto dai, ci ascoltiamo la musica e ci aspettiamo il premio. Aspetta. Se non sapete la risposta, mettete una bella X, così guarda, le abbiamo detto. Vabbè. Oddio, me mamma. Allora, scusa, come ultimo messaggio vi ricordo il 333-180-9494, quindi scrivete e il vostro biglietto sarà già nelle vostre mani. Di rientro allo special twice, Thes Got It's Friday. Allora, finalmente il weekend è arrivato, possiamo liberarci del peso di tutta la settimana. Come? Beh, giustamente andando a teatro, ridendo, tenendosi un po' alla leggera, sempre ovviamente con tanta riflessione, quindi con quel pizzico che ti mette a nudo, ma ancora quella fogliolina che ti permette di coprire le nudità. È così, vedi, ce l'ha fatta. Qui non ce la faceva più. Però è grandiosa, eh? Alla fine te l'ha infilata così a sorpresa, metaforina, perfetto. Perfetto, e direi che anche azzeccata, quindi va benissimo. Lo specchio l'abbiamo già citato in precedenza e mi raccomando il nostro quizzone sul filmone, perché di filmone si tratta secondo me. Sì, siamo nel campo dei filmoni, anche perché il cast è di quelli costosi, come suol dirsi, la regia è di quelle importanti. Anche dal punto di vista scenografia, effetti speciali, c'è qualcosa, perché comunque c'è una parte notevole, notevolmente ben fatta, quindi insomma... Anche a livello di dialoghi, che è un po' la sua caratteristica del regista, di creare questi dialoghi molto ricchi e molto frenetici. E veloci, è vero, fai fatica a seguirli, li devi sempre rivedere, risentire due o tre volte, come quando gli spettacoli, vai a vedere gli spettacoli di Bergonzoni. Ah sì, 4-5 volte, se non capivo mai quello che diceva. Gli spettacoli di Bortolini sono più o meno uguali, no, non è vero, sono molto invece... Sono in maniera raffinata e immediati, secondo me, quindi diciamo che è pura pop art. Sì. Poi Eugenio, che è anche regista dello spettacolo, non so se l'avevamo detto questo, che lui l'ha anche diretto. In realtà ce lo siamo poi dirette. Dirigere il sottoscritto non è una cosa facile quando sei un attore, perché ci siamo fatti due scatole così l'un l'altro, perché ci consigliavamo sulle nostre reciproche scene. Però anche come regista è uno di quelli che vuole, cioè... rigido, quella è la linea, bisogna seguire quella linea. Con me ha fatto fatica, ma alla fine poi faccio quello che vuole lui, quindi insomma è ma bravo, è bravo. Una domanda, tu e Eugenio da quanti anni vi conoscete? Ormai cominciano a essere una decina e passa. Quindi quando c'è anche quella sintonia a livello proprio di amicizia è normale, sì, che poi devo dire è stata immediata, perché siamo intanto due chiacchieroni entrambi, poi siamo due appassionati di teatro e soprattutto abbiamo una caratteristica rara in questo mestiere: non siamo invidiosi. Che è una cosa che nel nostro lavoro è invece comune, è una cosa pessima. L'invidia, sì. Noi non lo siamo, naturalmente. Quindi parteggiamo per gli altri, oltre che per noi stessi. E quindi io parteggio per lui, lui parteggia per me, ci vogliamo molto bene da questo punto di vista. E quando una cosa poi la facciamo insieme è più facile. E poi si vedono i risultati, sì, soprattutto. Quando si dice si fa il tifo per gli amici. Sì. Questa è una cosa molto bella, decisamente, quindi anche una grande empatia. Ricordo 333-180-9494, ovviamente andiamo a teatro in via Volto Santo, San Salvatore, il teatro che è una bomboniera nel cuore della nostra bellissima città, un valore aggiunto non solo estetico ma anche per quanto riguarda il teatro. A questo punto, quasi in conclusione, last but not least, si dice, salutiamo Alessandro Cappelletti. Grande, allora sì, importante questo saluto. Posso schiarirmi la voce, scusate. Volevo salutare Alessandro Cappelletti, che è una persona meravigliosa, un grandissimo regista e un grande conoscitore di cinema. Lo dico perché ne ho beneficiato per anni dei suoi consigli cinematografici. Tutte le volte mi diceva, vai a vedere una cosa. Devo dire, non ci siamo mai trovati in disaccordo. Qualche volta forse qualche discussioncina un po' più lunga del normale in osteria. Un grande Cappelletti, un mito. Ascolta, puoi mettere per me una buona parola in diretta, che in radio non mangio nessuno. Magari può venire lo special twice. Proviamoci, perché ha una caratteristica Cappelletti, quella di essere una persona che dipende come si sveglia la mattina. Quindi se c'è la mattina che si sveglia storto, e sarà che sarà capitato tutte le volte che gli hai chiamato tu che era la mattina storta. Può essere così, eh? Sì, molto probabile. Beh, allora il prossimo punto di riferimento dello Special Twice sarà riuscire a portarlo anche qui con noi allo Special Twice. Vediamo. Magari sarebbe una bella soddisfazione fare una puntata sul cinema con Alessandro, che salutiamo ovviamente, e sarà all'ascolto dei 103.1 di Radio Città Fugico. Che dire, cara Elisa? Intanto la chiusura parte da un grande ringraziamento alla disponibilità di Andrea a stare in nostra compagnia. Grazie infinite, Andrea. Grazie, adesso possiamo slacciarti la palla che ti abbiamo legato al piede. grazie a voi, è stato un piacere talmente grande che quando volete io ci sono, prendo la macchinina, Vignola è vicinissima, vengo e sto con voi. Poi se ci capita anche nella sportina, la torta, eccola, guarda. Eccola, io lo sapevo che si andava a finire. È dimenticata la Barozzi. E noi non ci dimentichiamo di voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, grandi regali allo Special Twice, le shopper, potete portarle a teatro. Certo, portatele, anzi dovete portarle a teatro, perché siete ospiti, quindi al San Salvatore. Teatro San Salvatore, via Volto Santo 1, 25 e 26 ottobre, una scelta non chiara. Una scelta non chiara, regia di Eugenio Maria Bortolini con Andrea Sant'Anastasio, Anastasia Kuzmina, pensiamo a che gioco di parole che ho dovuto fare, e Jessica Tonelli. In conclusione, a voi tutti un buon appetito e un buon weekend e grazie per l'attenzione. Grazie a voi, salutiamo ciao Andrea, ringraziamolo. Ciao, grazie, grazie Alice, grazie tantissimo di avermi... Volevo dire una cosa, così in chiusa, veloce, perché per me lui è piana. Perché mi piace l'idea che sia piana, cioè una montagna piana. Sì, questa montagna è piana. Da oggi tu sarai per me piana. Benissimo, e questa cosa per me è un grande onore. Sant'Anastaso. Grazie piana.